Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Quest'anno l'economia italiana crescerà, secondo le più recenti stime del governo, attorno allo 0,9%. Non è molto, ma è già un primo risultato, poiché usciamo da oltre 3 anni di recessione che ha prodotto conseguenze gravi per la nostra economia, a partire dai posti di lavoro persi, più di 1 milione. L'anno prossimo dovremo raggiungere un tasso di crescita attorno all'1,6% se il rallentamento della Cina e delle economie emergenti lo consentirà. Tassi di sviluppo incoraggianti, ma decisamente lontani da quelli che l'Italia registrò negli anni 50 e 60, gli anni del cosiddetto boom economico. Il ritmo di crescita dell'economia fu notevole in quel felice biennio 1960-61, anche al di sopra del balzo, già di tutto rispetto, registrato nella seconda metà degli anni 50, tra il 5,2 del 1955 e il 5,9% del 59. Per una volta era l'Italia a guidare la classifica, più 8,4% contro il più 4,5% della Germania, il più 5,5% della Francia, il 3,3% del Regno Unito e il 2,5% degli Stati Uniti. Nel 1962 l'asticella si arrestò al 7,8%. L'espansione dei consumi e in genere della domanda determinò un forte aumento della produzione e dell'occupazione. Un dato per tutti: l'indice annuo della produzione industriale superò del 13,7% il target dell'anno precedente, risultato che consentì al nostro paese di figurare al primo posto come sviluppo produttivo tra i principali paesi industrializzati dell'Europa occidentale. Un'altra Italia, quella del boom. Le serie storiche mostrano che se il reddito reale per abitante si triplicò in un secolo, dal 1861 al 1960, più della metà dell'incremento si concentrò proprio negli anni 50. Anni di sviluppo prorompente, trainati dai consumi e dal mito dell'automobile, come ci ricorda questo famoso film di Dino Risi, Il sorpasso del 1962. Nel fucile, gli occhiali, non guardare che senso vietato. Mai fermarsi, se non te la contesta una voce la contravvenzione non è valida. Oh, studi procedura, ma che avvocato sei? Guarda come dondolo. Ribella di schiavo, sciogli i cani, nato per servire. Sono gli anni del boom economico, della crescita impetuosa ma ineguale. Si acuiscono proprio in quegli anni gli squilibri strutturali. Una crescita imponente che tuttavia avviene a scapito del mezzogiorno e delle zone meno sviluppate del paese e che vede soprattutto nelle grandi città crescere il fenomeno dell'urbanizzazione e dell'abusivismo edilizio. L'inaugurazione dell'Autostrada del Sole è da questo punto di vista una tappa importante. Un'opera gigantesca che attraversa l'Italia per più di 755 chilometri, progettata per rilanciare l'economia nazionale, costata qualcosa come 300 milioni al chilometro, costruita per collegare l'Italia e divenuta simbolo della nuova industrializzazione. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole un istante, 1.000 baci, 1.000 carezze vuole allora. Abbiamo in linea il professor Gianni Toniolo, che è docente di storia della globalizzazione alla LUIS. Bentornato professor Toniolo, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Buonasera a lei e agli altri. Allora, riparliamo oggi non più dell'inflazione come la scorsa settimana, ma volgiamo il nostro sguardo alla crescita, elemento determinante come tutti noi sappiamo, per parlare di quella che era la situazione del nostro paese, diciamo, tra gli anni 50-60, per arrivare, se possiamo, anche fino agli anni 70. Furono anni di crescita importante. Come si riuscì, professore, a registrare tassi di crescita che, se non ricordo male, raggiunsero addirittura il 5-6% in alcuni anni? Mi fa molto piacere ricordare questi anni, perché sono anni che oggi io ho chiamato gli anni dell'età dell'oro, l'età dell'oro del capitalismo italiano, in cui l'Italia cresce a tassi vicini al, in media per tutto il ventennio, dal 50 ai primi anni 70, del 5%, ma poi c'è un momento di straordinario tra il 58 e il 63, in cui addirittura i tassi di crescita arrivarono vicini al 7%. Come ci si arrivò? L'Italia era un paese, è un paese arretrato nel 1950, nel 1950 si completa la ricostruzione, ritorniamo col livello di reddito che avevamo nel 1939. L'Italia si trovava in una situazione di aver perso la guerra e si disse: perse la guerra, ma vinse la pace perché seppe utilizzare al meglio una serie di circostanze che erano quelle dell'economia mondiale, che erano quelle delle nuove istituzioni internazionali, che era la grande apertura degli Stati Uniti e il sostegno degli Stati Uniti alla ripresa dell'Europa, lo seppe utilizzare molto bene, soprattutto importando tecnologia dal paese più avanzato, che erano soprattutto gli Stati Uniti, lo fece mandando missioni, sia gli industriali, la Confindustria, sia i sindacati mandarono missioni tecniche a vedere in America come si poteva fare. Mm-hmm. E fu importato questa grande tecnologia della catena di montaggio, no? Del famoso taylorismo. Sì. E questo era particolarmente adatto a far fronte a quelli che erano i bisogni degli italiani, che erano bisogni di beni di consumo durevoli. Infatti sono gli anni dell'esplosione dei consumi, se vogliamo. Sono gli anni dei beni di consumo durevoli in particolare, quindi sì. La 500, quindi tutto il bianco, il famoso bianco. Gli elettrodomestici. Tutti gli elettrodomestici che incidentalmente ebbero un effetto molto importante sul ruolo della donna, perché la donna che dalla campagna era arrivata alla città, liberata da molto del suo lavoro, dalla lavatrice, dalla lavapiatti, dal frigorifero, riuscì a muoversi dalla casa, si mosse e cominciò a guardarsi attorno e a trovare anche dei lavori, quindi fu una rivoluzione anche culturale straordinaria legata a questa rivoluzione dei consumi, se vuole. Anche sociale a questo punto. Assolutamente, assolutamente. E quindi anni 50, anni 60 sono stati definiti gli anni del boom economico, la fine degli anni 50, inizio anni 60, ma in realtà poi la fase di espansione dell'economia italiana durò ancora a lungo. Si interruppe, se non ricordo male, già alla metà degli anni 60. E ci fu una brevissima crisi nel 63-64, ma fu una cosetta che non si notò, fu solo un rallentamento della crescita, non ci fu una crescita negativa. Ma professore, potremo mai registrare nuovamente quei tassi di sviluppo, secondo lei? Quelli no. Non credo, erano circostanze eccezionali che si verificarono in tutta Europa, in taluni paesi più, in taluni paesi meno. Noi e la Germania fummo i paesi, diciamo, che crebbero più rapidamente, ma furono, credo, circostanze eccezionali sia dal punto di vista dell'ambiente internazionale sia dal punto di vista del tipo di tecnologia che era necessaria per ottenere quelle crescite. Però io chiediamo anzi oggi come mai l'Italia che ha avuto questi grandi successi economici, perché poi anche gli anni 70 e 80 non andarono male, sì. Come mai dagli anni 90 in poi invece il motore si è fermato. E questo è il problema dei nostri tempi. E questo è il problema che oggi alla fine si spera di questa lunghissima crisi, la più grave della storia d'Italia, abbiamo avuto una crisi più grave di quella della grande depressione degli anni 30, oggi il problema è come si consolida questa ripresa in un contesto internazionale molto difficile e in un contesto italiano dove mancano ancora alcuni fattori di crescita importanti, in particolare io sottolineo sempre il capitale umano che non è adeguato alla tecnologia di oggi. Eppure, professore, rileggendo la storia di quegli anni, è impressionante che in pochissimi anni l'economia italiana passa da una situazione sostanzialmente di economia arretrata, come lei ricordava, prevalentemente agricola, a diventare una delle più grandi potenze industriali del mondo, è in pochissimi anni. Quindi, come dire, è possibile, anche se poi i contesti storici sono totalmente diversi. Certamente. E quindi, ecco, allora un'ultima considerazione volevo fare con lei, anche nel paragone con quello che è accaduto nella storia recente. Oggi, pur accontentandoci, se vogliamo, di tassi di sviluppo, tra virgolette, dello 0,9, dell'1, l'1 e qualcosa, e naturalmente però possiamo contare sull'aiuto fondamentale che viene dalla politica monetaria. Fino a quando, secondo lei, potremo fruire di questo beneficio? Ma io spero che finché dura lo utilizziamo bene, ma che ci prepariamo a fin d'ora a sapere che non sarà infinito questo supporto monetario, che ha anche dei costi, perché ci droga un pochettino e certo. può avere degli effetti negativi anche sull'economia, non potrà certo essere prolungato indefinitamente. Bene, professor Toniolo, grazie veramente, le auguriamo buona serata. Grazie a lei, buona serata a tutti.